perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Per l'appunto i due di Denari che sono pronti a ripartire questa settimana. Mauro, buongiorno. Esattamente, Deborah, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Cosa abbiamo in calendario stamattina? Direi che potremmo sicuramente partire con la meteo borsa per capire che settimana ci aspetta sui mercati. E poi parleremo del rogito, il rogito, questo momento fondamentale nella vita degli uomini e delle donne, una sorta di rito di passaggio all'età adulta. Soprattutto perché di solito coincide con l'accensione di un mutuo e abbiamo un ospite importante. Storico per il Sole 24 Ore, aggiungerei, se non si offende. Non lo presentiamo, così teniamo un po' di suspense. Anche se gli amici su Facebook possono già vederlo, quindi noi li salutiamo. Potete andare sul social network a seguire il nostro live, la nostra live. Poi commenteremo l'indagine sullo shopping dei prodotti fisici attraverso i device. Tutta roba complessa, così me l'ha scritta Marco Lombardo. Il tema è fare compravendita di tutto ciò che ci piace attraverso internet. L'e-commerce funziona molto bene nel nostro paese, ma non solo per prenotare viaggi o servizi, anche i beni fisici ne vengono comprati tanti. E c'è la vostra classifica sul Sole oggi, Mauro. Sì, oggi abbiamo presentato questa classifica sul Sole 24 Ore proprio dell'acquisto dei beni fisici. E anzi, a questo proposito avremo modo poi di parlarne. Vi invitiamo a scriverci 349-238-6666, potete mandare un sms o un whatsapp, e così se volete anche mandarci magari una foto, un'immagine dell'ultimo acquisto che avete fatto. Frigorifero, la lavatrice, il frullatore, un abito, delle scarpe. Io mi compro di tutto per i miei nipoti, devo dire la verità, perché, quindi immagino anche abbigliamento per i più piccoli, magliette e cose del genere, di una grande squadra di calcio, e quindi preferisco non sapere quale. Comunque sì, perché lo sai. Menzione speciale per la foto, per l'immagine più benissimo, originale. Faremo la nostra video, la nostra photo gallery. Intanto direi, Mauro, di partire con così un po' il clima che c'è in borsa questa mattina. E allora meteo borsa. Meteo borsa ci aiuta a capire quello che succede stamattina, ma auspicabilmente anche quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Alfonso Maglio, responsabile ufficio studi di Marzotto Sim, che salutiamo, benvenuto, buongiorno. Ciao a tutti, buon inizio settimana. Allora, buon inizio settimana è proprio il caso di dirlo, perché la borsa parte piuttosto brillante. Abbiamo dei rialzi che superano il punto percentuale a Milano, a Parigi, a Francoforte. Londra rimane un pochino indietro. Diciamo che stamattina pare che i mercati stiano tentando di lasciare da parte sia le preoccupazioni legate al passaggio dell'uragano Irma negli Stati Uniti, che succede ad Harvey, che ha già devastato molte zone. E poi abbiamo naturalmente sotto i riflettori ancora il rapporto di cambio, l'euro dollaro, l'euro rallenta un pochino, il petrolio, insomma, a che cosa si deve questa euforia di stamattina? Beh, in realtà negli ultimi giorni abbiamo avuto tre eventi particolarmente positivi che hanno contribuito a ridurre la tensione sui mercati finanziari. Il primo è relativo alla settimana scorsa e riguarda la riunione della Banca Centrale Europea, dalla quale non sono emersi indicazioni relative a eventuali restrizioni della politica monetaria, e questo è positivo perché sono tutti più rilassati. Il secondo elemento è quello relativo all'accordo raggiunto tra Trump e i democratici per l'aumento del debito federale, e poi il terzo, che è un po' tragicomico, nel senso che è sostanziale ma è anche un po' di colore, perché pare che Kim avrebbe, il dittatore nordcoreano, avrebbe dovuto lanciare un missile durante lo scorso weekend, e in realtà ha preferito partecipare ad un party. Si è dato una tranquillizzata e quindi le borse ne risentono. Quindi, esatto, c'è stato un impatto positivo sulle borse, tutte positive come si diceva, e in particolare anche i titoli governativi periferici sono tutti molto tonici, ecco. Ecco, però questa settimana attendiamo delle decisioni da parte della Bank of England, dico certo. Bene? Sì, certo, questo è un punto un po' particolare, perché la Bank of England è a metà del guado, ha un'inflazione molto forte, che è stimata all'intorno del 2,8, una crescita decente dell'1,7, quindi questo imporrebbe un rialzo dei tassi per frenare l'inflazione e dare maggiore forza alla sterlina che è ai minimi sull'euro, sì. Esatto, ai minimi sull'euro, anche per le ragioni che tutti conosciamo della Brexit. Questo però, un eventuale rialzo dei tassi, affosserebbe ulteriormente la crescita. Quindi questo è un po' il dilemma che la banca centrale inglese sarà tenuta a dipanare. Noi pensiamo che tutto si risolverà in un nulla di fatto, perché in un contesto incerto come quello attuale, in cui non sappiamo effettivamente nulla in merito alle evoluzioni della Brexit, alzare i tassi sarebbe un po' un... un azzardo. Ecco. Il dilemma della Bank of England, potremmo chiamarlo, che è un po' quello in cui si trova anche la Federal Reserve, che ha altre questioni da affrontare, una crescita che c'è sicuramente negli Stati Uniti, un quadro macroeconomico sicuramente più favorevole rispetto a quello europeo, ma che ogni tanto in realtà presenta qualche statistica che appare inceppata e quindi questo rinvia le decisioni, certo, di aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Altri temi macroeconomici da tenere sotto osservazione in settimana, velocemente Maglio, e quali settori saranno particolarmente in movimento invece dal punto di vista del mercato azionario? Allora, dal punto di vista macro, il prossimo venerdì è pieno di indicatori, ne abbiamo scelti un paio, sono tutti relativi all'economia americana, ci sono le vendite al dettaglio e la produzione industriale, che sono storicamente due indicatori molto importanti per capire sia il lato degli investimenti sia il lato della domanda per consumi. Per quanto riguarda invece i settori, occhi puntati sul settore petrolifero, che durante l'ultima stagione dei risultati ha riportato dei risultati molto buoni, ha ridotto il rischio finanziario, nonostante questo è il peggior settore da inizio anno. Quindi ora noi non stiamo dicendo che il prezzo del petrolio tornerà a 60-70, perché comunque il contesto strutturale fondamentale per il petrolio riteniamo possa continuare a essere critico, però ci sono queste indicazioni su un settore che è oggettivamente migliorato, e qualora le aspettative del mercato dovessero riallinearsi ai progressi effettivamente fatti dalle aziende, potrebbe esserci un rally di breve periodo. Ecco. E quindi guardiamo ai titoli petroliferi. Grazie ad Alfonso Maglio, Marzotto Sim, per essere stato grazie con noi. Voi. Buona giornata. Io ricordo infine che martedì abbiamo anche in asta 8 miliardi di titoli di Stato BTP a medio e lungo termine. Siccome, come sappiamo bene Mauro, gli italiani sono molto affezionati al titolo di Stato, dobbiamo ricordare che queste aste ci sono, anche se il titolo di Stato non rende tanto. Non rende più come una volta, verrebbe da dire. Ma rende di più o meno del mattone? Ma è una bella domanda, però tutto questo parlare di decisioni delle banche centrali, cara Deborah, mi fa venire in mente che finché stanno tranquille, cioè finché non decidono, è anche un momento favorevole per indebitarsi, chissà, certo, magari con un bel mutuo. C'è la colonna sonora scelta stamattina, chissà se piace anche al nostro ospite. Ma presentiamolo, dai. Vai, no, allora ospite storico, perché ha un'anzianità aziendale molto più lunga della nostra. È una firma storica effettivamente del Sole 24 Ore, mi spiace non avere un rullo di tamburi adeguato, però spero che non se la prenda. Allora, signore e signori, il notaio Angelo Busani. Buongiorno a tutti da parte mia. Buongiorno Angelo, scherziamo perché è vero, tu sei una firma storica del Sole 24 Ore, da molti anni commenti le novità del codice civile, le novità notarili e ovviamente tutto quello che riguarda anche l'acquisto della casa. Proprio oggi, tra l'altro, firmi sul Sole 24 Ore una ulteriore spiegazione della notizia, esatto, che abbiamo anticipato qualche giorno fa. La notizia che è inserita peraltro nella norma sulla concorrenza, che abbiamo spiegato in lungo e in largo in tutti i commi che compongono quest'unico articolo appunto della legge 124, se non mi ricordo male, 124. Il tema è il rogito. Allora, saranno garantiti adesso i rogiti che si andranno a fare appunto tra le persone che vogliono naturalmente fare un passaggio di proprietà di un'abitazione, perché il notaio avrà l'obbligo, se una delle due parti lo chiederà, di aprire un conto di deposito dove far transitare la somma che naturalmente deve essere versata dall'acquirente, esatto, della casa. Allora, sembra tutto così facile, in realtà il tema importante è che è una facoltà, però in realtà qualche complicazione per tutte le parti in causa ci sono, Mauro. Sì, è proprio così. Allora, io chiamerei subito in causa Angelo Busani, perché oggi tu spieghi sul Sole 24 Ore, appunto, ci sono diversi modi per garantirsi. Garantirsi da cosa, innanzitutto? In una compravendita c'è da precisare che non basta firmare l'atto di compravendita e il contratto, bisogna che il contratto venga registrato nei registri immobiliari. Faccio l'esempio che si fa agli studenti del primo anno di università. Se Tizio vende a Caio un appartamento e poi lo stesso giorno lo vende a Sempronio, e tra i due non prevale chi per primo ha firmato il contratto, tra i due prevale chi per primo giunge nei registri immobiliari a registrare il contratto. Ovviamente è una cosa che non fa l'acquirente, che fa il notaio. Quindi c'è un margine di rischio, quei giorni che separano l'ultima ispezione nei registri immobiliari che ha fatto il notaio e il giorno in cui il notaio stesso va a mettere l'atto nei registri immobiliari. C'è questo lasso di tempo, 2, 3, 4, 5 giorni a seconda dei casi, in cui può capitare un evento dannoso per l'acquirente. Allora, il fatto è che se l'acquirente ha dato i soldi al venditore e il venditore, nell'ipotesi più nefasta, più estrema, si volatilizza, purtroppo l'acquisto non è andato a buon fine. È vero che tutti i notai sono obbligatoriamente assicurati ed è vero che speriamo che nessuno possa subire danni da questi eventi che poi sono non sono all'ordine del giorno. No, ma infatti però... il tema è questo: quanto è facile per una persona poter vendere lo stesso immobile a più soggetti, per cui il fatto che nasca una norma per tutelare da queste situazioni è originale. In realtà le situazioni a rischio possono essere, no Mauro, anche altre. Ma infatti perché spesso ci sono dei vizi cosiddetti sull'immobile che viene ceduto, cioè che succede? Che si scopre però proprio all'ultimo momento che sull'immobile grava ad esempio un'ipoteca, perché questo stesso immobile è stato messo a garanzia magari perché chi sta vendendo aveva bisogno di un prestito e questa ipoteca però spunta inaspettatamente all'ultimo momento. Sì, non è il caso del notaio, spunti inaspettatamente quando si è fatto un compromesso fuori dallo studio notarile. Ecco, se c'è un'ipoteca, diciamo, anziana, che è stata istituita a tempo, di quella ci si accorge tranquillamente. Il problema è, in una situazione di crisi economica come quella che abbiamo vissuto e qualche strascico lo stiamo ancora vivendo in questo periodo storico, il problema è che l'ipoteca può piovere proprio in quei giorni cruciali in cui si stipula il rogito. Quindi prima ho fatto l'esempio che si fa l'esempio di scuola che si fa all'università per far capire il meccanismo dei registri immobiliari, ma il vero tema è ciò che capita nei giorni immediatamente precedenti, immediatamente successivi al rogito, perché in quei giorni può capitare un evento tipo l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale, tipo un pignoramento, tipo un sequestro, tipo una domanda giudiziale che riguardino l'immobile, che vengono registrati prima dell'acquisto, della registrazione dell'acquisto dell'immobile, quindi prevalgono rispetto all'acquisto che l'acquirente faccia. In questo caso, se i soldi non sono passati al venditore ma sono ancora sul tavolo, e in poche parole in questo conto specifico che apre il notaio, ecco che l'acquirente non subisce rischi perché quei soldi vengono prioritariamente utilizzati per sanare il vizio, per coprire la falla che si è verificata e per differenza vengono poi restituiti al venditore. Allora il senso è che se si chiede di ricorrere al conto di deposito, quindi in sostanza, per dirla con una parola sicuramente non giuridica, di parcheggiare, si chiede al notaio di parcheggiare per qualche giorno i soldi su questo particolare conto di deposito, in questo modo si è garantiti dall'emersione di un qualche vizio, di un qualche disturbo che può appunto pregiudicare l'acquisto della casa. Esattamente così, è ciò che si fa in Francia da sempre, chi ha sperimentato qualche acquisto in Francia l'ha già visto all'opera. In Italia devo dire la verità che mentre in Francia i tempi di rilascio di questi soldi sono lunghi, in Italia non dovrebbe capitare che questi soldi vengano trattenuti per più di, diciamo, da 2 a 5 giorni al massimo, quindi è un parcheggio che veramente se tutto va bene. No, questo è un tema interessante perché esattamente come è stato sollevato anche dal Sole 24 Ore la settimana scorsa, sono delle somme rilevanti quelle che vengono accantonate e parcheggiate momentaneamente. Molti dicono sì, magari teoricamente se io lo investo in uno strumento di investimento anche di brevissimo termine, un piccolo margine di interesse questa somma lo produce. In questo caso come funziona? Perché c'è stata la curiosità sollevata proprio da Andrea Candidi, collega del Sole 24 Ore, secondo la quale, non è una curiosità, difatti la norma dispone questo, che questi interessi vadano addirittura allo Stato. Ma per quale motivo, se è denaro mio? Perché non devono andare a nessuno, in sostanza sono interessi che si producono per micro somme, per micro investimenti, per micro pagamenti, e quindi probabilmente ad anno su tutte le somme che verranno versate sono cifre rilevanti, nel singolo episodio sono probabilmente somme talmente piccole da essere non calcolabili e probabilmente inferiori al costo dell'operazione bancaria che vi è da fare per ricevere i soldi in deposito e per poi bonificarli a chi spetta. Ma voglio essere buono questa mattina, ricordo che secondo la norma dovrebbero andare a finanziare un fondo per le piccole e medie imprese, quindi a vantaggio di tutta l'economia. Meno male. Questo dice la norma, poi non incolpate me se il denaro non si trova, di sicuro gli interessi, prodotti da questo denaro, per piccoli che siano, comunque non vanno né al notaio, né all'acquirente, né al venditore. Esatto, quello che c'è da dire, parlo da parte mia, che giustamente la norma dice che non devono finire in tasca al notaio perché sono soldi altrui, specialmente non sono soldi del pubblico ufficiale, quindi non, è, certo. non sarebbe corretto lucrare interessi su soldi destinati al pagamento di tasse. Devo dire che l'esperienza mia in particolare dice che specialmente che nell'ultimo periodo gli interessi non hanno compensato le spese di gestione dei conti, quindi non c'era neanche quel rischio lì in epoche di interessi bassissimi. Però è giusto che lo Stato abbia imposto che ogni frutto che dia questo conto corrente non sia versato al notaio depositario, perché non sono soldi suoi giustamente, ma venga versato a un terzo imparziale, che è poi questo fondo che dovrebbe finanziare le piccole e medie imprese. Grazie Angelo, ma è il tuo momento secondo me. No, Deborah. Stavo non solamente ancora? Segnalandoti che magari possiamo ricordare agli ascoltatori che possono fare delle domande all'800240024 su questo argomento. Volevo capire, visto che questa disposizione è introdotta dalla legge sulla concorrenza, la 124, che è andata in gazzetta proprio pochi giorni fa, sarà fatta valere, notaio Busani, dai rogiti che verranno stipulati dalla pubblicazione della gazzetta della norma in avanti, oppure anche già quei procedimenti, quelle trattative che sono già in corso in qualche maniera possono già essere condizionate da questa novità? Se io sono un acquirente di un'abitazione, ho fatto già un'offerta, magari adesso voglio così esprimere questa mia facoltà di far transitare la somma che mi serve per finalizzare la compravendita sul conto del notaio, lo posso già fare oppure sono esclusa? Posto che in diritto non c'è mai, che se ne pensi, una soluzione univoca, ma tutto si può pensare il contrario di tutto, chi mi legge su 24 ore sa che dal giorno in cui questa norma è entrata in vigore io ho scritto e sono fermamente convinto, per quanto conti la mia convinzione, che questa norma si applichi anche ai procedimenti in corso, non solo ai procedimenti che verranno attivati prima d'ora. Quindi chi avesse fatto un compromesso, metti caso in giugno, in maggio, in febbraio di quest'anno e debba stipulare il contratto definitivo a rogito dopo il 29 d'agosto, dati l'entrata in vigore di questa norma, è chiaro che si può avvalere di questa nuova facoltà. E voglio dire, nella mia esperienza pratica è anche già capitato. Questa facoltà viene esercitata sostanzialmente dall'acquirente, si immagina, perché e il venditore può in qualche modo opporsi? No, assolutamente no, perché la legge parla della richiesta formulata da almeno una parte. Io insisto anche col dire che anche questa è una mia opinione, che è contestabile come tutte le opinioni, però credo che abbia un buon fondamento. Credo anche che sia una facoltà non rinunziabile se non in presenza di un pubblico ufficiale, quindi credo che una clausola di stile nel senso della rinuncia a questa facoltà non sia possibile immetterla in contratti preliminari che siano stipulati al di fuori di uno studio notarile. Perché c'è da dire, Mauro, che la cautela maggiore rispetto a questo deposito sarebbe quella di stipulare un compromesso in forma notarile, in modo da trascriverlo il compromesso lui nei registri immobiliari, ciò che farebbe da scudo a tutto ciò che capitasse nel periodo tra il compromesso e il rogito. Questo è veramente lo scudo, ma visto che la maggior parte dei compromessi si fanno al di fuori degli studi notarili e visto che questi eventi pregiudizievoli possono capitare a chiunque tutti i giorni, ecco che questo deposito sana la situazione di insicurezza in cui si trova chi ha stipulato il compromesso non in forma notarile. Quindi non basta che nel preliminare d'ora in poi venga inserita una clausola rinuncio adesso già alla facoltà. No, allora, la facoltà resta intatta. Ripeto, con estremo rispetto verso opinioni avverse a quella che esprimo io, credo che questa, che diventerebbe ovviamente una clausola di stile, non sia possibile immetterla in un compromesso, anche perché, parliamoci chiaro, se fosse possibile questa rinunzia non si saprebbe perché questa legge sarebbe stata approvata, perché se il deposito si poteva fare anche prima, non è che questa legge inaugura una cosa che prima non si poteva fare. In alcuni casi si faceva anche prima, non era codificato. Se interviene una legge a dire che almeno una parte può chiedere questa facoltà, ciò vuol dire che la legge deve pur aver innovato qualcosa. Se interviene la legge e la disattiviamo con una clausola di stile che, guarda caso, venga scritta in tutti i compromessi in qualsiasi tipo di agenzia, stiamo parlando del nulla e questa trasmissione è meglio che non la facessimo. Dammi una risposta molto secca, ma così il rogito costerà di più, di meno o uguale? Esatto, che sono già le questioni che stanno sollevando gli ascoltatori. Ma credo che non costerà di più, perché alla fine alla fine non ci sono le tariffe, quindi è una trattativa. Però per voi è un adempimento in più, non proprio trascurabile. È un adempimento in più, perché però volentieri facciamo, assolutamente, molto volentieri. Chi paga il costo di questo conto corrente ad hoc che deve essere aperto per tutelare le parti in caso di una compravendita immobiliare? Ma questo conto non è un costo ad hoc, visto che devo pure avere un conto per il mio ufficio, per i soldi che prendo e che devo pagare allo Stato, per le tasse che devo versare in nome per conto dei clienti, alla fine avere un altro conto è la stessa cosa. Alla fine questo conto avrà una regolamentazione particolare rispetto al conto che si aveva prima senza particolare regolamentazione, che poi è la regolamentazione degli interessi e della regolamentazione, soprattutto, non l'abbiamo detto, del fatto che questi soldi che sono lì non possono essere utilizzati per pagare altre spese o per interessi personali del notaio. Per esempio, io non posso pagare i miei dipendenti con quel conto, non posso pagare i miei fornitori. Appunto, con quel conto. Appunto, per voi è comunque un conto di deposito, è un conto dedicato che vi costerà qualcosa, poco che vi costi, comunque siete... Ma fa parte, costerà... Nel rischio d'impresa, chiamiamolo così. Ma fa parte del servizio, fa parte di quello che l'ordinamento richiede, fa parte di quello che la civiltà moderna, il diritto che si evolve, richiede un professionista. Insomma, se c'è un notaio che farà il furbetto, magari ricaricando un po' la parcella durante la giornata rogito, segnalatecelo, ma non dovrebbe non è succedere. Il furbetto. Ognuno metterà sul tavolo le proprie pretese e come tutte le trattative di mercato, anche questa sarà una trattativa, visto che non esistono le tariffe, ognuno si potrà rivolgere al professionista che vorrà, ai costi che verranno concordati caso per caso, anche perché bisogna fare un preventivo a chi te lo chiede, quindi nessuno è obbligato a fare nulla, nessuno è obbligato a servirsi di un particolare professionista. Infatti, tutti sono liberi di andare dove vogliono e tutti sono liberi di contrattare quel che vogliono, non ci sono tariffe minime e quindi si può fare tutto quello che si vuole. Io devo, però non ho tanta libera scelta adesso invece, perché devo andare, perché anche dire, tardi. Ci devi dire come vanno le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Due di denari. Ma vi dico la verità, mi guardi negli occhi da uomo a uomo. Lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no? Come no? Sono notaio. Abusivo. Ma che abusivo? Lei è notaio. Sono notaio. Con la laurea? Con la laurea. Laurea. Adesso si dice laurea? No, si è sempre detto così. Appunto dico, si è sempre detto così. Si è sempre detto così, non laurea, laurea. E c'è l'ufficio, no? Ho l'ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno. L'ufficio. Di padre in figlio siamo arrivati a me. Però cliente, allora, sì, effettivamente un po' la figura del notaio è così mitologica, no? Figure storiche di grande tutela della collettività a cui ci si rivolgeva in passato per così magari confessare anche un po' i propri peccati come il parroco. Adesso si sono tanto modernizzati e qualcuno, anche se non ci crede, in realtà consentono di dirti un po' con grande anticipo come potrebbe essere eseguita una pratica. Nella fattispecie stamattina stiamo parlando di compravendite immobiliari, si può andare dal notaio per chiedere un preventivo di spesa rispetto a questi momenti della nostra vita, Mauro, no? Che come dicevi tu sono un po' dei momenti fondamentali, esatto. Sì, sono l'ingresso nell'età adulta per davvero, di e in solito. Termini molto semplici stamattina un grande esponente di questa categoria, il nostro amico Angelo Busani, ci sta spiegando cosa ha contemplato la recente legge sulla concorrenza, che dà la facoltà ad uno dei soggetti in gioco per una compravendita immobiliare, appunto, di chiedere al notaio di depositare la somma necessaria per finalizzare una compravendita immobiliare. Chiaramente a chiederlo è generalmente l'acquirente della nuova casa, del nuovo immobile. Tante le questioni da chiarire. Mauro, o sentiamo l'ascoltatore oppure c'era rimasto qualcosa in sospeso con il notaio Busani da terminare di commentare per la prima parte? In realtà io passerei la linea Raffaele da Milano. Eccolo un attimo qua. Perché ci chiede come fare, poi come gestire la cancellazione ipoteca, l'apertura del mutuo, questa nuova facoltà. Buongiorno Raffaele. Buongiorno, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di effettuare questo quesito. Ci dica. Posso? Allora, senta, volevo semplicemente chiedere questo. Quando un individuo vende un immobile, spesso e volentieri capita che ha su un'ipoteca. Deve a sua volta estinguere questa ipoteca per finanziandosi con il ricavato della vendita. A sua volta l'acquirente, per acquistare l'immobile, deve fare un mutuo. Come si combaciano le due cose, i soldi a garanzia e le due banche che una non vuole intervenire se l'altra non ha già estinto? Abbiamo compreso. Grazie Raffaele. Grazie Raffaele. Notaio Busani, prego. Negli ultimi miei tipo 20 anni di professione, perché prima di fatto i mutui non si facevano, è normale con la durata del mutuo a 20-30 anni che ci si trovi a vendere appartamenti gravati da ipoteche, quindi da debiti in corso. Quindi è quotidiano il problema di avere una nuova banca che finanzia l'acquirente, i soldi della nuova banca si prendono e si danno alla vecchia banca che estingue il mutuo. Quindi è una pratica che io personalmente svolgo da un periodo pluridecennale. Col conto di deposito non cambia nulla, perché se l'acquirente chiede il deposito del prezzo presso il notaio, la sua banca darà i soldi al notaio, il notaio prenderà i soldi e pagherà la vecchia banca, si estinguerà tutto e il venditore avrà la differenza tra i soldi pattuiti come prezzo e i soldi che l'acquirente tramite la sua banca ha versato alla banca del venditore, sembra uno scioglilingua, per estinguere il mutuo in corso di ammortamento. Questo però, al di là dello scioglilingua, Angelo, fa sì che alcune prassi, quello di vendo e acquisto nello stesso giorno, con il conto di deposito debbano un po' cambiare, perché bisogna aspettare questi giorni, 2, 3, 5 giorni. Il mercato della sostituzione. Premesso che in questo caso evidentemente il notaio del caso concreto si attiverà per fare il più presto possibile, e le operazioni in giornata ormai ce le chiedono periodicamente, voglio dire, è una mera questione organizzativa, e quindi invece di pagare il venditore, il quale dovrà rendersi acquirente in una nuova compravendita, evidentemente bisognerà organizzarsi per pagare colui, il destinatario finale di questi soldi, destinatario finale provocato dal fatto che chi vende poi va immediatamente a ricomprare. Quindi è una mera questione organizzativa alla quale ci dovremo abituare, e con l'esperienza che stiamo già facendo in questi primi giorni faremo in modo che tutto funzioni come prima, nella massima sicurezza di tutti, perché non scordiamocelo, queste misure non sono fatte per complicare la vita, ma sono fatte per aumentare la sicurezza delle transazioni. Giustamente dite, scherzando, ma poi non tanto, che il rogito è l'ingresso alla via adulta, perché due persone, pensiamo alla coppia che si unisce e che progetta un futuro di vita insieme, evidentemente una casa se la compra, e se la compra col mutuo, e quindi l'esperienza del rogito è un'esperienza che molti hanno in età molto giovane, e è un'esperienza che va condotta nella massima sicurezza. Certo. E la legge e il sistema giuridico e il sistema notarile sono finalizzati a creare questa massima sicurezza per chiunque abbia a che fare con queste pratiche. Ecco, dobbiamo dire, oggi sul Sole 24 Ore abbiamo sentito anche l'opinione degli agenti immobiliari, esatto, gli intermediari. Sì, come intanto ci stanno scrivendo. Ci stanno anche scrivendo. Perplessi, diciamo, rispetto a tutto ciò. Per quale motivo? Perché sostanzialmente loro temono un cambiamento di abitudini che, potendo intervenire fino all'ultimo momento, cioè il venditore, come abbiamo sentito anche dal notaio Busani, può in qualsiasi momento dire no, vorrei però ricorrere al conto di deposito. Ecco, temono che questo possa alterare ad esempio la prassi di cui parlavamo adesso, della vendita e riacquisto nello stesso giorno. Allora, per chiarire ulteriormente le idee ai nostri ascoltatori, prendo spunto la domanda che ci arriva al 349-238-6666 di Mara. Intanto in molti ci stanno anche scrivendoci, Mauro, mandandoci l'ultimo acquisto online che hanno fatto, stanno partecipando alla nostra fotogallery sul tema del giorno. Mandateci la fotografia di quello che avete comprato con internet recentemente, non la vacanza che avete prenotato, ma o il biglietto del treno che avete sottoscritto, perché anche quello è e-commerce, ma proprio l'oggetto fisico che avete comprato, dai regali per i vostri congiunti all'oggetto per la vostra casa che volevate, che avete trovato molto scontato, perché il tema fondamentale è questo, i prezzi molto convenienti che si trovano. Volevo dire, ero partita da Mara che ci chiede, avendo acceso la radio da poco, ho messo in vendita la casa, non voglio depositare i soldi in banca perché con quei soldi devo comprare un'altra casa, il notaio me li custodisce come a quali condizioni? Allora magari rifacciamo un riepilogo veloce della nuova prassi, notaio Busani, a beneficio di Mara e degli ascoltatori che vogliono un ABC molto sintetico di questa novità. Allora, la prassi è la seguente: chi vuole, non è obbligatorio. Esatto, facoltà. Diciamo l'acquirente che vuole, non è escluso che sia il venditore, perché mettiamo caso che un venditore che deve pagare due o tre banche perché ha delle esposizioni debitorie, lui stesso può chiedere che i soldi vengano depositati a un terzo imparziale, costui paghi i suoi creditori, ma facciamo il caso classico, l'acquirente che vuole garantirsi al massimo in questo suo iter di compravendita, chiede che i suoi soldi vengano depositati temporaneamente al notaio, il quale poi li darà al venditore, il notaio stipula il rogito di compravendita, lo firmano le parti, lo firma il notaio, l'atto deve essere introdotto nei registri immobiliari, a quel punto vi è la sicurezza dell'acquisto, perché a quel punto si può controllare che nessun pregiudizio sia piovuto in capo al venditore, perché ricordiamoci anche che anche il venditore è tutelato da questa vicenda, perché l'unico tra virgolette colpevole di una compravendita che può andare a cattivo fine è solamente il venditore. Quindi il notaio stipula rogito, lo si firma, lo si introduce nei registri immobiliari, il che richiede 2, 3, 4, 5 giorni, si controlla che tutto sia andato a buon fine, che la registrazione non sia preceduta da eventi pregiudizievoli, a quel punto lì partono i soldi per il venditore o per la destinazione che il venditore indicherà in sede di rogito al notaio depositario dei soldi. Allora, noi dobbiamo terminare qua questa parte, Mauro. Ci rimane fuori l'argomento mutuo, che è l'altro grande convitato di pietra in tutta l'operazione, ma magari questa parleremo presto. Assolutamente. Magari lo approfondirete voi, questo argomento sul Sole 24 Ore. Buon compleanno per i suoi 30 anni al Sole 24 Ore al notaio Busani, ma questa musichetta di sottofondo ci introduce al sonetto del lunedì. Ma perché dai, qualche ascoltatrice mi ha chiesto: ma è gli endecasillabi del lunedì? Devo chiamarti Messere. Allora, in Messere tuo onore, Meazza. No, ti ringrazio, può bastare anche Divin Poeta. Bene. E in tuo onore ho deciso di passare alla forma del sonetto che vado ora a declamare. Andiamo. Tanto noiosa e tanto mesta pare la settimana quando è lunedì. In molti si ritorna a lavorare e già le è una fortuna d'oggidì. Ma se l'occhio e l'orecchio vuoi lietare, ascolta il nostro dir che fa così. Il Sol 24 Ore puoi sfogliare e hai Radio 24 tutto il dì. Qua si sentì di rogiti e di borse e dell'e-commerce come si diffonde. Ci si fa in quattro come fe la Lazio, che al caro amico Alino mise in forse certezze di vittoria già profonde. Or traffico lanciam, che il verso è sazio. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Due di denari. Allora, ti dico, Mauro, un'amaca o amaca, non so dove preferiscano mettere l'accento i nostri ascoltatori, in tessuto con struttura di sostegno per due persone. E questo è un ascoltatore. Una amaca matrimoniale. E certamente. Poi un'ascoltatrice che si associa alle mie abitudini online, che sono quelle di comprare un sacco di regali per i nipoti, perché anche se io ce li ho lontani, così spedisco i regali e sono sempre la zia migliore dell'universo. Ho comprato la caraffa filtrante con 4 filtri, ci dice pure il prezzo, a 17 euro, quando al supermercato solo i filtri ne costano 21. E quindi qua rimettiamo in ballo anche la questione dei prezzi concorrenziali. L'ultimo acquisto online. Non riesco ad aprirlo, appunto, quello di questo ascoltatore. Ecco qua un sacco di cose della Lego, però... Quindi giochi per nipoti, figli. Io vorrei sapere, ma sì, l'acquisto più l'ultimo acquisto del notaio Angelo Busani invece con e-commerce? Un alimentatore per il mio telefonino, perché il telefonino comprato via e-commerce mi è stato fornito con l'alimentatore americano. E lei non ha detto, lei non sa chi sono io, sono il notaio no, però Busani. Io, visto che faccio notaio, vorrei fare io l'estrazione di questo premio. Ah, sicuramente, che a questo punto l'estrazione è garantita ai massimi livelli. Allora chiamo in causa però il nostro esperto di questa parte dell'e-commerce. Si tratta di Roberto Liscia. Buongiorno Roberto Liscia. Presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Presidente, ben ritrovato. Buongiorno a voi e grazie. Noi lo avevamo disturbato, Mauro, anche in una trasmissione, in un Ma cos'è quest'estate, una puntata nella quale tu non eri intervenuto, mi hai fatto compagnia tante mattine, quando abbiamo raccontato di quella grande operazione di cui si è parlato molto sui giornali quest'estate, l'alleanza di due colossi americani, quella tra Walmart e Google, per contendere ad Amazon lo scettro dello shopping online. E quindi volevamo un po' capire cosa potesse succedere in Italia rispetto a questa rivoluzione che è ormai sotto gli occhi di tutti, in realtà quella di fare delle grandi operazioni di acquisti appunto su internet. Invece Il Sole stamattina cosa racconta? Il Sole questa mattina presenta questa classifica sulla quale vorrei subito il parere del presidente Liscia, perché siamo andati a vedere quanto quando si acquista, ad esempio dove si acquista di più a Milano e a Sondrio, gli acquisti avvengono per lo più nella fascia centrale della giornata e sostanzialmente c'è anche per l'acquisto digitale una sindrome della quarta settimana, cioè si compra un po' meno quando si va alla fine del mese. Presidente Liscia, è sorpreso da questi numeri? Confermano anche l'impressione che avete voi? Sono assolutamente numeri confortanti che confermano quello che analizziamo noi in termini di giorni della settimana, settimana nel mese e ore nella giornata. Non sono un po' sorpreso sul fatto che questi numeri non rappresentano la media degli acquisti italiani, perché in realtà la ricerca è stata fatta su 50 acquirenti dai venditori che sono serviti da questa azienda tecnologica e quindi non rappresentano la media degli italiani. Faccio soltanto un esempio. Questi acquirenti di questa ricerca comprano per il 43% con il mobile e il tablet. In realtà la ricerca media, il risultato medio della ricerca che facciamo su tutti gli italiani ci dice che sono soltanto il 31% che acquistano online con un tablet e un telefonino. Quindi diciamo questa ricerca fa riferimento ai 50.000 clienti che acquistano da un certo numero di venditori. Sì. Questo è vero, che copre però appunto una amplissima maggioranza degli acquisti. Peraltro va anche detto, forse non l'ho ricordato molto chiaramente, l'indagine che è della Alchemy, che presentiamo oggi sul Sole 24 Ore, riguarda prodotti fisici, quindi esatto. Non abbiamo considerato tutta quell'ampia gamma, ad esempio, dell'acquisto servizi. Dei biglietti, dei servizi o anche dei software stessi che si possono acquistare online. Ecco, certo. Sostanzialmente la paura, poi le preoccupazioni degli ascoltatori, mi immagino di tutti noi quando si compra online, sono: che garanzie ho per il prodotto fisico e che garanzie ho sul fatto che il mio pagamento, la mia somma non vada dispersa chissà dove nel nulla digitale, nelle tasche di qualcun altro. Rispetto a questo cosa possiamo dire, Presidente Liscia? Ma tre cose: il pagamento è normalmente garantito dai circuiti, dalle carte di credito e dagli altri strumenti di pagamento, e se c'è una frode il circuito rimborsa e quindi il compratore non perde la somma pattuita. La seconda cosa è che è meglio rivolgersi a siti che danno una certa garanzia, o perché sono conosciuti o perché hanno il marchio di Netcom che analizza 80 parametri per garantire che il sito risponda a quelli che sono, diciamo, le garanzie dettate dalla legge. Il terzo è che noi abbiamo instaurato sia a livello nazionale che a livello europeo quella che si chiama l'Alternative Dispute Resolution. Siamo l'unica piattaforma riconosciuta dal Ministero delle Attività Produttive, che se c'è un contenzioso noi gestiamo il contenzioso e normalmente per il 99% riusciamo a trovare con il venditore una soluzione che riscontra i problemi esplicitati dal consumatore. Intanto un ascoltatore ci racconta, sempre in questo nostro personale sondaggio che stiamo facendo per farci raccontare da voi qual è l'ultimo articolo online fisico che avete appunto comprato, un altro ascoltatore ci racconta che ieri ha acquistato un marsupio per attrezzatura fotografica, un altro ancora invece ci dice: per piacere non date troppe informazioni, se no i prezzi aumentano e noi che compriamo da anni online non abbiamo più la convenienza di prima. Il tema prezzo, Presidente Liscia, tra un minuto dobbiamo salutarla, purtroppo è centrale, ma è un mondo veramente di grandi vantaggi che ovviamente il mondo del commercio tradizionale guarda con un po' di disappunto, però il futuro è questo. Ma dunque c'è un tema semplicissimo: il prezzo scende grazie a internet, perché sappiamo che il prezzo è una componente di equilibrio tra la domanda e l'offerta. L'offerta che internet offre è un'offerta quasi infinita, quindi aumentando l'offerta virtuale i prezzi scendono. Naturalmente il prezzo che scende trova un suo equilibrio e al quale si devono in qualche misura conformare anche le vendite fisiche. Quindi il futuro del prezzo online sarà lo stesso futuro del prezzo offline e i due canali troveranno un equilibrio uguale. Allora, noi abbiamo terminato intanto per quest'oggi. Grazie a Roberto Liscia, presidente di Netcom, per essere stato con noi. Stavo intanto ancora riguardando un po' i messaggi, ma stamattina WhatsApp fa le bizze e quindi la nostra... Io propongo a questo punto l'amaca o amaca o amaca matrimoniale. Però no, non il materasso so se... matrimoniale è arrivato adesso, guarda. Ah, anche il materasso matrimoniale. Certo. Allora, notaio Busani... L'amaca è fuori da ogni tipo di confrontabilità con qualsiasi altro acquisto, quindi ha vinto l'amaca. Lo segnaliamo. Grazie, abbiamo terminato, ma torniamo domani noi, Mauro. A domani. Buona giornata a tutti.